Oggi voglio iniziare facendovi una domanda. Quando ritenete di poter affermare senza ombra di dubbio che qualcuno, un artista, uno scrittore, uno sportivo, uno statista, che qualcuno si possa definire un grande, un personaggio determinante nella storia dell'umanità? E forse la risposta più giusta, quella che daremmo tutti, indipendentemente dalle nostre inclinazioni, dai nostri gusti, la risposta giusta è che un grande è colui che non è più solo suo, è uno la cui opera diventa universale, che quello che ha compiuto entra a far parte del patrimonio dell'umanità. Eh già, è il passaggio da persona a simbolo di qualcosa. E qui nasce la grandezza di un personaggio, la sua, il suo elevarsi al di sopra del tempo, dello spazio, il suo ingresso nella storia. Vi dico questo perché la riflessione che ci è venuta nell'affrontare il protagonista della puntata di oggi è stata questa. Quale parola può abbracciare tutta la sua grandezza se non la parola universalità? Ma non una universalità altisonante, necessariamente colta, perché il personaggio del quale stiamo per parlarvi è grande perché è di tutti e siamo noi che lo rendiamo immenso ogni volta che in qualche maniera lo citiamo. Questo accade spessissimo, molto più di quanto si pensi. Oggi raccontiamo la straordinaria vita, le meravigliose opere di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, un vanto italiano che il mondo ci invidia. Il nostro protagonista è Giacomo Puccini da Lucca, è il compositore che ha dato vita a opere struggenti, passionali, ha scritto pietre angolari dell'intera storia della lirica e ha creato eroine controverse ma indimenticabili, e di alcune di queste abbiamo già parlato peraltro, Manon Lescaut, Madama Butterfly, Tosca Florio, la gelida principessa cinese Turandot, la dolce Mimì della Bohème, e poi ha composto arie operistiche belle, famose, che anche se non siamo appassionati del genere, le conosciamo, le cantiamo, almeno insomma, proviamo a cantarle. E chi non conosce All'alba vincerò, il Nessun dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini, una delle arie forse la più famosa in assoluto di tutti i tempi, l'avrete sentita cantare, suonare decine di volte, anche perché vi do subito un dato che dovrebbe farci riflettere tutti, sono stati contati oltre 300 film che contengono musiche di Puccini. Questo tanto per dirvi, solo parlando di cinema, e poi ci sarebbero anche il teatro, la televisione, altri media. Il cinema ha utilizzato le musiche di Puccini a piene mani, perché evidentemente hanno proprio quella caratteristica di emozione, di universalità che le rende senza tempo, oltre che meravigliose. Lui stesso, Giacomo Puccini, quando gli chiedevano il segreto del suo successo, della accoglienza sempre entusiastica delle sue opere da parte del pubblico e anche da parte della gente comune, lui diceva che era perché lui raccontava storie di piccole anime dalle grandi passioni. E proprio così, le vicende narrate nelle sue opere sono storie ambientate per lo più tra gente comune che vive però passioni travolgenti, quindi era più facile immedesimarsi nei suoi personaggi. Come ha potuto fare questo? Puccini è vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quindi in un momento storico in cui la musica era quella trionfalistica, meravigliosa altrettanto, di Verdi. Lui invece è scivolato dolcemente nel verismo musicale, ha sviluppato la tecnica del leitmotiv, come si direbbe oggi, creando opere modernissime anche sotto il profilo strettamente tecnico. E oggi ripercorreremo assieme la vita di questo grande compositore, anche per scoprire un carattere forte e delicato assieme, per capire come possa aver creato dal nulla delle figure, soprattutto di donna, delle figure così appassionate e sentimentali. Lui che amava le automobili veloci, i sigari toscani e la caccia, però era anche un grandissimo amante delle donne. Ascoltate cosa scrive di lui Paolo Nuti nella sua biografia di Puccini e i segreti del grande maestro. Il massimo operista della storia godeva della fama di vero donnaiolo, celebre, benestante, sempre in giro con auto di lusso, insolite per l'epoca. Tutto contribuiva a delineare la figura di un vero e proprio Don Giovanni. Ad alimentare la leggenda furono diversi episodi. Oltre alla moglie Elvira, che fu al suo fianco per tutta la vita, il maestro ebbe diverse relazioni extraconiugali anche con alcune sue interpreti, che gli ispirarono la figura appassionata di Tosca, per esempio, o quella delicata di Liu nella Turandot. Lui stesso si definì un potente cacciatore di uccelli selvatici, libretti d'opera e belle donne. Ma va detto che comunque fu una persona sensibile, a tratti anche timido, incapace di vivere con leggerezza i rapporti, di qualsiasi natura. Eh sì, beh, è evidente che insomma se scrivi di donne e hai avuto tante donne, insomma tutto questo è sicuramente un vantaggio e da questo punto di vista diciamo che Puccini si era ben documentato. Ma spostiamoci a Lucca, la bellissima cittadina toscana, famosa per la sua, per esempio la sua cinta muraria rinascimentale meravigliosa che racchiude il centro storico. Qui Puccini nasce il 22 dicembre 1858, sesto di 9 figli, i genitori Michele Puccini e Albina Magi. E i Puccini sono da 4 generazioni maestri di cappella del Duomo di Lucca. Michele è uno stimato professore di composizione all'Istituto Musicale e muore il padre quando Giacomo ha solo 5 anni, lasciando la famiglia in ristrettezze economiche. La madre deve smistare i figli presso le case di diversi parenti. Giacomo va a vivere dallo zio materno Fortunato Magi, anche lui musicista, che lo via allo studio del pianoforte, del canto corale. Questo zio Fortunato lo giudica immediatamente un allievo poco dotato, poco disciplinato, lo definisce un falento, cioè un fannullone senza talento. Giacomo intanto cresce, lo mandano al seminario musicale a San Michele, poi a quello della cattedrale, studia organo, i suoi risultati scolastici sono tremendi, lui odia soprattutto la matematica, i giudizi degli insegnanti sono unanimi, Puccini entra in classe solo per consumare i pantaloni sulla sedia, non presta la minima attenzione a nessun argomento, continua a tamburellare sul suo banco come fosse un pianoforte, non legge mai. Perfetto. Finiti a fatica gli studi di base, si iscrive all'Istituto Musicale di Lucca, dove il padre era stato insegnante, e le cose qui cambiano radicalmente. Qui lui dimostra da subito un talento particolare. A 14 anni suona già l'organo in maniera professionale, contribuisce già all'economia familiare, si esibisce nelle chiese di Lucca, intrattiene gli avventori nei caffè alla moda della città, suona il pianoforte, diciamo pianista di piano bar, che era una figura abbastanza nuova per quell'epoca, però compone anche diversi valzer che anticiperanno le grandi arie delle sue opere future. Nel settembre 1876 Puccini, diciottenne, al Teatro Nuovo di Pisa assiste a una meravigliosa rappresentazione dell'Aida di Verdi, che aveva trionfato 4 anni prima alla Scala. Ha una vera e propria folgorazione che gli cambierà per sempre la vita. Intanto bisogna dire che lui adora Verdi come tutti gli italiani, lui ha veramente una venerazione per il maestro, lo studia, lo suona, lo canta. Quando scopre che a Pisa verrà rappresentata la sua opera, ci va. Attenzione, non è una decisione facile come quella che potremmo dire oggi, stasera andiamo a teatro. No, non è così, perché lui i soldi non ce li ha per andare a uno spettacolo, non li ha nemmeno per il viaggio fino a Pisa. Lucca-Pisa allora insomma non era una passeggiata. Propone ai compagni di scuola di andare a piedi e loro non sono dell'avviso perché la strada è lunga, non sono abituati a camminare. Lui organizza nei giorni precedenti una specie di allenamento, delle corse, offre mezzo sigaro toscano come premio a chi arriva primo, un sigaro rubato allo zio. Insomma, il gruppo raggiunge Pisa, poi bisogna entrare in teatro, loro ovviamente non hanno il biglietto. Ascoltate la ricostruzione di questo avvenimento cruciale nella vita di Giacomo Puccini, raccontato nella biografia del maestro scritta da Giuseppe Adami. Giacomo si diresse risoluto dal portiere del teatro, piantato sull'ingresso, chiedendogli d'un fiato: «Dica, potrei parlare all'impresario?» «Al Sor Boccioni, proprio a lui». «Ora non è possibile, ha da fare. È dentro al botteghino». «Ma gli è che dovrei consegnargli una lettera urgente. Son venuto da Lucca apposta per recapitarla in mano propria. Se mi lascia passare, son qui con 2 amici miei. Ce la sbrighiamo subito». Il portiere capì, sorrise sotto i baffi e disse con magnanima bontà: «Passino pure. Il gioco era riuscito. Appena passata la soglia, evitando il botteghino, i tre ragazzi sgusciarono all'assalto della galleria. Alle 8:30 precise, il direttore d'orchestra, battendo 3 colpi sul leggio, diede l'attacco. Silenzio misterioso e religioso. Giacomo si aspettava che l'opera s'aprisse con squilli alti e trionfali, quando invece dilagò quel pianissimo di violini, dolce e lieve come un battito d'ali, trattenne il respiro e si premette il cuore che pareva scoppiargli di commozione. Un'onda di poesia l'avvolgeva e lo trascinava in un'atmosfera irreale, sempre più in alto, sempre più lontano. E questo episodio, insomma, serve anche per capire il carattere di Puccini, che rimarrà così per tutta la vita, temerario, un po' spaccone, ma sensibile, pieno di cuore, di sentimento. E l'Aida che gli scatena una febbre intensa, sogni, speranze, anche voglia di gloria, di splendore. Prima di quella sera lui già aveva capito che era destinato a fare il musicista, però era convinto che magari avrebbe seguito le orme dei suoi avi, cioè sarebbe diventato un compositore di opere sacre, magari un insegnante nello stesso istituto del padre. Bene, adesso ha capito che il teatro musicale è il suo futuro, che la sua vita è l'opera. Si decide a intraprendere la strada della composizione operistica e si prefigge una meta quasi impossibile, cioè il Conservatorio di Milano. Quella è la destinazione privilegiata per i musicisti alla ricerca di fortuna, perché Milano sta attraversando un'epoca di grande crescita economica e culturale. Però i Puccini non hanno i soldi per mantenere un figlio a Milano per farlo studiare al conservatorio. Però la mamma, Albina Maggi, è una donna forte e risoluta che non si scoraggia facilmente, fa di tutto per fare ottenere al figlio una borsa di studio. Chiede alle autorità cittadine, sia lucchesi che milanesi, ottiene rifiuti. La scusa è sempre la stessa, le casse sono vuote, ma qualcuno peraltro invece sostiene che Giacomo si era fatto una fama poco raccomandabile, uno scavezzacollo, un donnaiolo, un perditempo. Insomma, nessuno vede in lui un investimento proficuo. Ma la madre non si lascia scoraggiare, perché lei sente che il figlio farà grandi cose, tenta il tutto per tutto. Se Giacomo s'ostina a voler partire, ora che con l'Aida si è montato la fantasia del teatro, so bene quale via si potrebbe seguire, quella della regina. Non a Lucca o a Milano, figliolo, ma a Roma, in Quirinale, batte un gran cuore, quello di Margherita, che m'han detto è sempre pronta a proteggere gli artisti. Proprio questa mattina ho scritto alla contessa Pallavicini, dama di corte, esponendole il nostro caso, perché se ne interessi. Son certa che lo farà. Albina ha sentito dire che a volte i regnanti concedono dei finanziamenti alle famiglie bisognose per far studiare i figli. Così si rivolge direttamente alla regina Margherita di Savoia, moglie di Umberto I, quella di cui Montanelli dirà che gli italiani avevano capito che anche se non avevano un gran re, avevano una grande regina, insomma una figura importante per la cultura, per il paese. E Montanelli probabilmente aveva ragione, perché la regina concede a Giacomo Puccini il sussidio reale perché possa garantirsi il perfezionamento musicale al Conservatorio di Milano, la vera e propria cantera dei musicisti dell'epoca. Così nel 1880 Puccini, a 22 anni, si trasferisce a Milano, inizia a frequentare il Conservatorio, diventa allievo di Amilcare Ponchielli, un altro grande compositore, conosce Pietro Mascagni, col quale avvierà una amicizia profonda che durerà per tutta la vita, e lì arrivano anche i primi lavori di Puccini che vengono pubblicati: un adagietto composto nell'882, un capriccio sinfonico scritto come compito d'esame finale nel 1883. Col diploma in tasca, Giacomo Puccini deve subito darsi da fare, perché il sussidio reale è terminato col conservatorio. Partecipa a un concorso per opere in un atto indetto dall'editore musicale Sonzogno. Ponchielli gli ha presentato un librettista, Ferdinando Fontana, che è un poeta scapigliato della scapigliatura, e con lui Puccini compone Le Villi, opera d'esordio, un soggetto ricavato dal balletto Giselle, racconta la storia delle creature ultime ultramondane denominate appunto vili, vendicatrici, spietate vendicatrici d'amore, protagoniste di avventure magiche ma anche metafisiche. E al concorso Puccini non vince, in realtà non arriva neanche tra i primi 5 considerati degni di menzione, lui rimane malissimo. In realtà lui non sa che questa è una manovra editoriale del grande Giulio Ricordi, che è un concorrente di Sonzogno. La commissione del premio include importanti personalità legate alla scuderia Ricordi, tra le quali lo stesso Ponchielli. Insomma, viene deciso di non far vincere Puccini per impedirgli di legarsi all'editore avversario. Pochi mesi dopo, in realtà il 31 maggio del 1884, Le Vili viene rappresentata con successo enorme al Teatro Dal Verme di Milano sotto il patrocinio dell'editore Giulio Ricordi. Insomma, un escamotage per assicurarsi un artista che già allora prometteva il meglio. Puccini stipulerà un contratto a vita con Giulio Ricordi, insomma darà vita a una straordinaria collaborazione destinata a durare per sempre. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando il cantore dei grandi sentimenti, della gente comune che viene travolta da passioni eccezionali, che ha dato vita a donne indimenticabili, a delle eroine mai viste come la Manon Lescaut, Madama Butterfly, Tosca Florio, la gelida principessa cinese Turandot, la dolce Mimì di Bohème. Insomma, il nostro protagonista di oggi è il grande compositore Giacomo Puccini, che ha raccontato un'epoca di grandi cambiamenti legando il passato e il futuro con la sua musica. È una musica che fa veramente da ponte tra l'Italia del bel canto dell'Ottocento e l'Italia unita del primo Novecento. Stiamo raccontando un uomo che ha vissuto la storia accanto ai grandi del mondo, moderno ma attaccato profondamente alle tradizioni della sua terra, la Toscana, la sua meravigliosa città natale, Lucca, amante dei motori, dei sigari toscani, della caccia, ma soprattutto delle belle donne. E lui ha avuto una bella vita, ha lasciato un'eredità incommensurabile al mondo intero, che lo celebra attraverso le sue opere immortali, attraverso quelle che lui definiva le grandi passioni delle piccole anime. E pensate per esempio che a Lucca c'è l'unico festival permanente dedicato a Giacomo Puccini, un evento al giorno, tutti i giorni a Lucca succede qualcosa per celebrare Giacomo Puccini. Beh, meraviglioso. E intanto nel nostro racconto siamo arrivati al suo primo colpo d'ala, Le Vili, la sua prima opera. Siamo nell'884, Puccini ha 26 anni, con questa opera conquista il pubblico milanese e grazie a quest'opera nasce un binomio indissolubile, quello con uno degli uomini più potenti nel panorama musicale italiano, Giulio Ricordi. Investe Ricordi su di lui, anche se si trova molti dei suoi collaboratori contro, e anche perché dopo Le Vili la seconda opera di Puccini, che si chiama Edgar, è un flop, non funziona. Ma Giulio Ricordi ha capito che Puccini ha delle potenzialità infinite, enormi, ha capito che sta per esplodere in tutta la sua potenza espressiva. Pare che io abbia sbagliato i conti. Non è questo, signor Giulio. Può succedere, può succedere. E così oggi, dicevamo, i nostri conti riguardo a una certa voce non tornano. La voce in questione sui nostri registri si chiama signor maestro Puccini Giacomo. Diamo la parola alle cifre. Sono 18.000 lire di acconti che al giorno d'oggi risultano quasi completamente al passivo. Io sono ancora il difensore di quella voce passiva perché sostengo che può diventare attiva. Siccome poi sono un buon editore, fino a prova contraria anche un discreto uomo d'affari, io vi dico che non ho nessuna intenzione quei biglietti da 1.000 di perderli. Tutt'altro, ho in animo di rimetterli in tasca tanto a voi quanto a me. E magari, ma come, scusi? Continuando a versare anticipi al maestro Giacomo Puccini finché ci darà un'opera che ci rimborsi di tutto. No, no, no, no, no. E questo era un estratto dal bellissimo sceneggiato televisivo Puccini di Sandro Borchi del 73 con il grande Alberto Lionello nel ruolo di Puccini e poi Ilaria Occhini, Nada Malanima e poi l'immenso Tino Carraro nel ruolo di Giulio Ricordi. Ma torniamo a noi, l'editore è sicuro del valore del suo artista, sa che Puccini è sulla rampa di lancio, sta per dare alla luce qualcosa di grandioso, se ne deve occupare. Anche perché nel 1884 Puccini diciamo ne ha combinata una delle sue, perché si è innamorato, ricambiato di Elvira Bonturi, sposata con un droghiere di Lucca, un certo Narciso Geminiani. Elvira e il marito hanno due figli, un maschio e una bambina, ma questo insomma non impedisce a Elvira di lasciarsi travolgere dalla passione, di lasciare il marito, di raggiungere assieme alla figlia Giacomo Puccini, che vive a Monza. E qui a Monza, il 23 dicembre del 1886, nasce il figlio di questa coppia, Tonio, è l'unico figlio del maestro. Stiamo parlando di un grande amore, quello che c'è tra Giacomo e Elvira, passione vera, una relazione ovviamente sofferta, è difficile per la gelosia di lei, anche insomma per le scappatelle, per i peccati veniali, diciamo così, di lui. Il rapporto intenso, alti e bassi, scandali, tragedie, un rapporto che durerà tutta la vita. Elvira sarà una delle massime ispiratrici delle grandi eroine pucciniane, quindi la sua anima deve essere contenta così. Naturalmente Ricordi ci ha visto benissimo, il genio di Puccini esplode in tutta la sua potenza con l'opera successiva, La Manon Lescaut, tratta da un romanzo settecentesco di un abate francese, Antoine Prévost, che aveva già ispirato un'altra Manon, quella di Massenet. Tra l'altro qualcuno aveva fatto notare a Puccini che componendo un'opera sulla vicenda della Manon avrebbe dovuto confrontarsi col famoso Massenet, e lui aveva risposto: Massenet l'ha sentita alla francese con cipria e minuetti, io la sentirò all'italiana con passione disperata. Palla al centro. E la prima rappresentazione della Manon Lescaut arriva la sera del 1 febbraio 1893 al Regio di Torino, alla presenza di Puccini. Il successo è clamoroso, il maestro diventa all'istante una star, viene definito il successore, il principe ereditario di Giuseppe Verdi, e il successo gli provoca anche un aumento notevolissimo delle disponibilità economiche, e quindi lui può realizzare il suo sogno, tornare in Toscana. Il maestro è un uomo singolare, la sua vena artistica così sensibile poi si contrappone alla sua natura di uomo sportivo, ama le auto veloci, ama la caccia, e questa sua passione insomma lo porta a non amare la vita di città, ma vuole vivere in campagna. Acquista una cascina sulle colline tra Lucca e la Versilia, a Chiatri. Elvira non sopporta di dover vivere in una casa così isolata, che si può raggiungere solo a piedi, a dorso d'asino. Così poco dopo tutta la famiglia si sposta nel lago di Massaciucoli, siamo a Torre del Lago, oggi Torre del Lago Puccini, frazione di Viareggio, e qui lui si fa costruire una bellissima villa in riva al lago. Siamo nel Novecento, la villa oggi è aperta al pubblico, si possono vedere gli oggetti appartenuti a Puccini. Lui ama a tal punto questo luogo da affermare di essere affetto da Torre Laghite Acuta. Gaudio Supremo, Paradiso, Eden, Empireo, Turris Eburnea, Reggia, abitanti 120, 12 case. Paese tranquillo, con macchie splendide fino al mare, popolate di daini, cinghiali, lepri, conigli, fagiani, beccacce, merli, fringuelli, padule immenso, tramonti lussuriosi e straordinari, aria maccherona d'estate, splendida di primavera e di autunno, vento dominante, di estate il maestrale, d'inverno il grecale o il libeccio. Oltre i 120 abitanti soprattutti, i canali navigabili e le troglodite capanne di falasco, ci sono diverse folaghe, fischioni, tuffetti e mestoloni, certo più intelligenti degli abitanti perché difficili ad accostarsi. E qui nella sua amatissima Torre del Lago, Puccini darà vita alle sue opere maggiori, molte di queste scritte assieme ai grandi librettisti dell'epoca, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa. Qui comporrà La Bohème, La Tosca, La Madama Butterfly, La Fanciulla del West, La Rondine, poi il trittico Il Tabarro su Arangelica e Gianni Schicchi. Il Falco. Il Falco. Il Falco. E il Gabbiano. Giacomo Puccini ha stravinto la battaglia della vita, è celebre, è benestante, è amato, ha il suo buon ritiro a Torre del Lago con un bellissimo gruppo di amici, con gente semplice con la quale va a caccia, va all'osteria, beve, fuma, conduce una bella vita di una persona qualsiasi, anche se ormai lui è una star mondiale, dopo La Bohème, Tosca, La Madama Butterfly, che hanno un riscontro straordinario in tutto il mondo. Nel 1907 la Metropolitan Opera House di New York dedica una lunga rassegna alle sue opere. Ascoltate questa breve registrazione con la sua voce originale. 21 febbraio 1907, il maestro che parla ai microfoni della Columbia Phonograph Company di New York. Alle ore 12:30 pomeridiane. Maestro Giacomo Puccini, coperto di gloria e d'onore. Buonasera ragazzi! Lontano 5.000 miglia dalla sua poetica ed ispiratrice Torre del Lago, maestro Puccini, lascerai in vita la tua parola e sarà un palpito d'affetto. Sono veramente grato al gran pubblico di New York per le accoglienze tanto entusiastiche che ha fatto alle mie opere. Accetto l'augurio del buon viaggio e finisco gridando America forever! Puccini è un uomo volitivo, un carattere forte, ha un rapporto molto stretto sia con il suo geniale editore Giulio Ricordi che con i suoi librettisti, soprattutto Illica e Giacosa. Si dice che oltre a scegliere i soggetti e a scrivere la musica, lo impartisca anche indicazioni precise sulla metrica dei versi. Per esempio, nello spartito della Bohème lui aveva segnalato che in un certo punto gli serviva l'assonanza cocorico cocorico bistecca, che diventa la celebre aria di Musetta, quando men vo soletta. Un genio del genere ha bisogno di propulsori, ha bisogno di motori, e forse da questo bisogna partire, da questo presupposto, per capire insomma l'importanza delle donne nella vita di Puccini. C'è la moglie Elvira, rapporto determinante anche se è sofferto, perché Elvira insomma non sta tranquilla, è molto gelosa, questo sicuramente gli ha ispirato il carattere di Tosca. Però Puccini si concede delle relazioni extraconiugali. Una delle sue prime amanti era una giovane torinese conosciuta col nome di Corinna, e nel 2007 è stato svelato il suo vero nome, la sarta Marianna Coriasco. Poi c'era stata una signora londinese, Sybil Beddington, sposata Seligman, poi la baronessa Josephine von Stegel, di Monaco di Baviera, sposata, madre di due bambine, poi una soprano austriaca, Rosa Adler. E di questa relazione ci sono a testimonianza 163 lettere. E non c'era ancora WhatsApp che poi potevi cancellare. Insomma, la soprano ha ispirato a Puccini la parte di Liu in Turandot. E poi ci sono state tante altre relazioni che Puccini insomma è riuscito a tenere più nascoste. Magari ce n'è stata qualcuno ancora più importante, non so, ci piace pensarlo. Elvira ci è passata sopra, tradimenti sofferti ma perdonati. L'unico scandalo che colpisce Puccini veramente e la sua famiglia riguarda una ragazza che non era stata affatto la sua amante, però aveva scatenato la furia e la gelosia tremenda di Elvira, una stalker direi, con esiti drammatici. La ragazza si chiama Doria Manfredi, la domestica 21enne di Villa Puccini. Doria, che vive lì da quando aveva 14 anni, crescendo diventa una bellissima ragazza. Elvira, se la vede sempre sotto gli occhi, diventa folle di gelosia e l'accusa apertamente. Non vuoi sapere dov'è la Doria? Perché? Dov'è? casa sua. Sta male? Molto bene, non può stare. È andata via che quasi non trovava la porta per uscire. Io gli ho detto solo quello che avevo sullo stomaco. Se la trovo ancora qua intorno, la butto nel lago. Scusa, io non ho capito nulla, no? La licenziata? Sicuro? Perché? A te lo sai, eh? Io no. Guarda, Giacomo, che io voglio sta calma. Per me io m'accontento di aver sistemato la cosa così. Così come? Qualcosa, Elvira? Non crederai di avermi dato una spiegazione? Cosa dovrei aver capito io? Guarda che ti conviene capire, se no parlo. Elvira, guarda che questa è grossa. Tu non puoi diffamare così una povera ragazza che faceva il possibile per accontentarci. Come? Devota, perfetta come una figlia! E Doria Manfredi, disperata per le maldicenze di un paese piccolo come Torre del Lago, il 23 gennaio 1909 ingoia delle pastiglie di sublimato corrosivo, si suicida. È uno scandalo tremendo che sfocia anche in una causa per diffamazione intentata, direi giustamente, dalla famiglia Manfredi ai danni di Elvira, che viene condannata in primo grado a una pena detentiva, poi sì, tutto si tramuta in un risarcimento di 12.000 lire per Puccini. Però è una tragedia, non posso lavorare più, le mie notti sono orribili, ho sempre davanti agli occhi la visione di quella povera vittima, non posso levarmela dalla mente. Comunque, per fortuna di Elvira, questo matrimonio sopravvive anche a questa ennesima e tragica batosta, insomma, una fortuna direi immeritata. E Puccini continuerà a infondere nelle sue opere tutto quel dramma, quella passione che fanno parte della sua vita, fino ad arrivare all'ultima opera bellissima e incompiuta, La Turandot. Nel frattempo però la salute del maestro lo sta abbandonando, tutto peggiora velocemente, un forte dolore alla gola porta a una diagnosi che lascia poche speranze. C'è in atto un tumore inoperabile. Puccini fa l'ultimo tentativo, va a Bruxelles dal professor Louis Ledoux e tenta in estremis una cura di radiazioni, ma non c'è niente da fare. Puccini muore il 29 novembre del 1924 a 66 anni. Vita meravigliosa, piena di colpi d'ala, piena di amori dati e ricevuti, ma piena soprattutto di opere che hanno fatto di Puccini un immortale. E sospeso tra la semplicità della sua Torre del Lago e i suoi amori travolgenti, accompagnando passioni semplici come la caccia e gli amici a passioni più sofisticate come l'amore. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.